L'azienda X ha ancora qualcosa da raccontare. Dopo averci spiegato come l'evasione fiscale non solo svuoti le casse dello Stato, ma droghi anche il mercato, premiando i furbi e azzoppando gli onesti, l'azienda X ha in serbo per noi un'altra storia tutta italiana. C'è un'azienda nel settore metalmeccanico, chiamiamola azienda Pinco Pallino, che negli anni scorsi ha operato anche negli indotti dell'IVA e dell'ILVA. Questa azienda aveva oltre 400 dipendenti, diciamo aveva, perché dalla primavera del 2011 è sottoposta a procedura di fallimento. L'azienda Pinco Pallino per anni non ha versato i contributi ai lavoratori, tanto che questo debito tributario appare a bilancio. Non bruscolini, ma 20 milioni di contributi non versati. E tuttavia questo non ha impedito all'azienda Pinco Pallino di partecipare alle gare d'appalto con grandi committenti, né di vincerle, anche perché, non pagando i contributi, poteva permettersi di offrire sconti del 30% e quindi di sbaragliare i concorrenti onesti. L'imprenditore dell'azienda X, che ha lavorato anche in Belgio, è sconfortato e perplesso. Nei paesi civili, ci spiega, la responsabilità del rispetto delle regole ricade anche sul committente. Se in una gara d'appalto si presenta una ditta che ha evaso i contributi dei lavoratori, il committente in Belgio non la sceglie, perché ne risponderebbe in prima persona. In Italia invece no, il committente incassa lo sconto della ditta che evade e chi si è visto si è visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.